Hadith numero 23. Abu Malik al-Haris bin Asim al-Ashari, che Allah si compiaccia di lui, disse: disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: la purezza, at-tuhur, è metà della fede. L'alhamdulillah, il dire la lode appartiene ad Allah, riempie la bilancia. Il subhanallah, incondivisa è la qualità divina di Allah. Walhamdulillah, e la lode appartiene ad Allah, riempiono la distanza tra il cielo e la terra. Il rito d'adorazione è luce. L'elargizione in beneficenza è una prova della fede. La pazienza è luminosità. Il Corano è una prova, o a tuo favore o contro di te. Ogni uomo incomincia la giornata come venditore della sua anima. C'è chi se la salva e chi se la perde. L'ha riferito l'imam Muslim.